ma perché? Io cerco l'infinita tua dolcezza, piccina mia, che tutto sei per me. E nel soave incanto del tuo viso, nel magico splendore del tuo sorriso, ritrovo la bellezza della vita e sento l'amarezza di leguar. Ogni tormento tu mi fai scordar, sei la carezza che mi consola, sei d'ogni giardino il fior, d'ogni fiamma sei l'ardor. Tutta la gioia tu mi sai donar, col tuo sorriso la tua parola, guardo tu mi guardi con amore, e mi sento in cuore la felicità. Porti al nido mio la tenera, dona tua bacino e chiamami papà.